sorriso, ma quel tiepido calore diventò un gran bollore. Dove sei, Luciana mia? Io non trovo la tua scia. Dove sei, lumaca bella? Ora dormi in quella teglia. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Oh Luciana, che peccato, tra di noi fu solo un flirt. Il nostro sogno sfortunato si concluse con un